Letture di Radio 24. Il meraviglioso mondo del mago di Oz, pubblicato nel 1900, ebbe un tale successo che il suo autore, Frank L. Baum, scrisse altri 12 romanzi ambientati nel paese di Oz. Ma trovò il tempo anche per scrivere racconti di ambientazione diversa, come ad esempio Il rapimento di Babbo Natale, che racconta di come Santa Claus, proprio per il fatto che rendeva felici tutti i bambini, era odiato dai demoni che vivevano nelle caverne. Convinti di avere dei seri motivi per odiare Santa Claus, un giorno i demoni si riuniscono per discutere la questione. I demoni decidono quindi di rapire Santa Claus, ma non hanno fatto i conti con gli aiutanti di Babbo Natale, che la notte della vigilia distribuiranno i regali al posto suo. Ma i demoni non lo sanno, e vedendo Santa Claus rattristato perché convinto di aver deluso le aspettative dei bambini, si pentono del loro gesto, per poi scoprire che in realtà ai bambini i regali erano arrivati comunque. «Mi sento davvero solo», disse il demone dell'egoismo, «perché Santa Claus distribuisce così tanti bei regali di Natale a tutti i bambini che quelli diventano felici e generosi attraverso il suo esempio e stanno lontani dalla mia caverna». «Ho lo stesso problema», aggiunse il demone dell'invidia. «I piccini sembrano contenti di Santa Claus e ci sono davvero pochi che riesco a far diventare invidiosi. E questo non è buono per me», dichiarò il demone dell'odio, «perché se nessun bambino passa dalle caverne dell'invidia e dell'egoismo, nessuno viene mai da me». «O da me», aggiunse il demone della malizia. «Da parte mia», disse il demone del pentimento, «si capisce facilmente che se i bambini non visitano le vostre caverne, non hanno bisogno di venire nella mia e quindi sono negletto quanto voi». «E tutto questo per colpa di quel Santa Claus», esclamò il demone dell'invidia. «Quello distrugge i nostri affari. Bisogna intervenire subito». Il giorno dopo, mentre Santa era indaffarato al lavoro, il demone dell'egoismo venne da lui e gli disse: «Questi giocattoli sono meravigliosi e bellissimi. Perché non te li tieni per te? Un vero peccato darli a quei bambini rumorosi e a quelle bambine infide che li rompono e distruggono così in fretta». «Sciocchezze!» urlò il vecchio barba grigia con gli occhi luminosi che scintillavano d'allegria mentre si volgevano al demone tentatore. «I bambini e le bambine non sono mai rumorosi o infidi dopo aver ricevuto i miei regali, e se posso farli felici per un giorno dell'anno, io sono contento». Il demone tornò dagli altri che aspettavano nelle loro caverne e disse: «Ho fallito perché Santa Claus non è per niente egoista». Il giorno seguente, il demone dell'invidia visitò Santa Claus. Disse: «I negozi di giocattoli sono pieni di oggetti belli come quelli che fai tu. Che vergogna se dovessero interferire con i tuoi affari. Con le macchine fanno i giocattoli molto più rapidamente di quello che puoi tu a mano e li vendono per soldi, mentre tu non guadagni niente dal tuo lavoro». Ma Santa Claus rifiutò di essere invidioso dei negozi di giocattoli. «Posso rifornire i bambini solo una volta all'anno, alla vigilia di Natale», rispose, «perché loro sono tanti e io uno solo. E visto che il mio lavoro è fatto di amore e bontà, mi vergognerei di ricevere denaro per i miei piccoli doni. Ma nel resto dell'anno i bambini si devono divertire in qualche modo, e allora i negozi possono portare tanta felicità ai miei piccoli amici. Mi piacciono quelle botteghe e sono contento che prosperino». Malgrado questo secondo rifiuto, il demone dell'odio pensò che sarebbe stato in grado di influenzare Santa Claus. Allora, il giorno dopo, entrò nel laboratorio che ferveva e disse: «Buongiorno, Santa, ho brutte notizie per te». «Allora vattene via da bravo», rispose Santa Claus. «Le brutte notizie dovrebbero essere tenute segrete e mai dette». «Non puoi sfuggire a questa, comunque», dichiarò il demone, «perché nel mondo ci sono molte persone che non credono in Santa Claus e tu le devi odiare per forza, visto che ti trattano così male». «Idiozie», urlò Santa. «E ci sono altri che sono arrabbiati perché fai felici i bambini, che ti ringhiano contro e ti chiamano vecchio imbecille. Hai ragione a odiare questi calunniatori e dovresti essere vendicato su di loro per queste brutte parole». «Ma io non li odio», esclamò Santa a chiare lettere. «Quella gente a me non fa del male, ma rendono solo se stessi e i loro bambini infelici. Poveretti, preferirei aiutarli che far loro del male». I demoni non potevano tentare Santa Claus in nessun modo. Anzi, lui era stato così arguto da capire che il loro scopo, visitandolo, era creare problemi e pasticci. E la sua risata allegra aveva sconcertato i malvagi e mostrato loro la follia di un tale comportamento. Quindi abbandonarono le parole di miele e decisero di passare alla forza. I malvagi demoni delle caverne furono pieni di rabbia e dolore quando scoprirono che la loro astuta cattura di Santa Claus non era servita a niente. Anzi, nessuno in quel giorno di Natale sembrava egoista, invidioso o pieno d'odio. E capendo che finché il santo dei bambini aveva così tanti amici potenti, era una follia opporsi a lui, i demoni non tentarono mai più di interferire con il suo viaggio alla vigilia di Natale. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi del racconto di Frank L. Baum, Il rapimento di Babbo Natale, tratto dalla raccolta Nero Natale, 9 racconti da brivido, Einaudi Editore, 196 pagine, 16 euro. Titola La vera storia di Capitan Uncino, il nuovo romanzo di Pier Domenico Baccalario. Una storia che inizia il 28 aprile 1829, quando in Inghilterra nasce un bambino che la corte cerca subito di eliminare. Si tratta infatti del figlio illegittimo di Re Giorgio IV, destinato a diventare Capitan Uncino. La stanza era buia, come si conveniva, e con almeno 4 diverse uscite. Il più giovane dei congiurati arrivò per ultimo, dopo aver attraversato di corsa tutte le scale del castello. Non appena sprofondò nel buio di quel luogo talmente riservato che neppure il signor Yuattaville, l'architetto del re, lo conosceva, sentì l'odore dolciastro dell'incenso e se ne stupì. Gli altri congiurati fecero frusciare i loro abiti eleganti e le armi d'ordinanza che portavano alla cintura. Il primo di loro domandò: «Dunque è accaduto?» Il più giovane dei congiurati si lisciò le mani sul camice da dottore imbrattato di sangue e aguzzò gli occhi per cercare di distinguere quante altre persone si fossero date appuntamento là sotto, ma vide solo bagliori di medaglie e di coccarde, un appuntito cappello da marina, uno stivale lucido e 5 profili inghiottiti dal nero color petrolio. Si schiarì la gola per poter rispondere. «È nato, lor signori, ed è un maschio!» «Un maschio!» imprecò uno dei congiurati in un forte accento tedesco. «Sembra quasi una maledizione». L'aria cominciò a friggere di tensione. Non era la prima volta che un sospetto del genere aleggiava nelle stanze del castello. Una maledizione, si diceva ormai da anni, aveva colpito la famiglia reale. Ma il giovane dottore continuò: «Un bel maschietto di 8 libbre per la precisione, e da come ha strillato appena venuto al mondo, signori, sembra anche che sia in perfetta salute». «E la madre, dottore?» domandò con un sussurro l'uomo che aveva parlato per primo. Sentendosi chiamato in causa, il più giovane dei congiurati si irrigidì. Non gli piacque sapere che gli altri ora conoscevano la sua identità, mentre di loro lui non vedeva altro che sagome indistinte che fremevano nell'ombra. Decise comunque di proseguire. «La madre è sopravvissuta al parto ed è vigile e attenta. È una donna forte e robusta, e anche lei, mi rincresce dirvelo, pare in salute, come se nulla fosse accaduto». «Questa è la peggiore delle disgrazie», esclamò nuovamente il tedesco. E a lui si aggiunse una voce non ancora udita. «Non solo un marmocchio illegittimo, ma anche una madre impresentabile». «Illegittimo, certo, Sir Robert», replicò la voce che aveva diretto fin dall'inizio la conversazione. Una voce che a poco il dottore cominciò a mettere a fuoco, così come i suoi occhi si stavano adattando lentamente all'oscurità di quel ritrovo sotterraneo. «Illegittimo, ma anche il primo e unico figlio maschio del re d'Inghilterra, l'unico erede che potrebbe sopravvivergli». Pensando a chi potesse essere Sir Robert, al dottore venne in mente Robert Peel, segretario di Stato del re, e cominciò per la prima volta a pensare che il complotto a cui era stato invitato potesse essere molto più pericoloso di quanto avesse fino allora immaginato. Nella stanza senza luci ci fu un lungo momento di silenzio, interrotto proprio dalla voce di quel misterioso Sir Robert. «Anche il nipote del re, il figlio della povera Carlotta, è nato morto. Altri eredi non ve ne sono, e l'età del nostro sovrano non è tale da farci sperare in notizie migliori. Non è la sua età a spaventarci, intervenne un uomo che ancora non aveva parlato, con tono grave e carico di autorità. Ma la malattia che lo affligge e lo costringe a non uscire mai dalle sue stanze, pur di sfuggire alla luce del sole. La voce che il dottore pensava di aver riconosciuto interruppe entrambi. Il nostro re ha una condotta di vita dissennata, è circondato da una corte di inetti, non fa politica da anni e trascorre il suo tempo in inutili ricevimenti, tra dame, artisti e perditempo. Il popolo vuole un re e il nostro re, invece, fingendosi un perfetto gentiluomo, si sottrae ai suoi doveri. Il dottore fece un passo indietro nella stanza, travolto dalla forza di quelle affermazioni. Chi poteva essere tanto ardito, folle o temerario da parlare in quel modo di re Giorgio IV del Regno Unito, duca di Cornovaglia e principe di Galles, del legittimo re d'Inghilterra? «Che cosa proponete di fare, dunque, ora che il bambino è nato?» domandò Sir Robert. «Conoscete la posizione di Eton?» intervenne l'uomo dalla voce autorevole. Colui che poco prima aveva inveito contro il re scoppiò in una sorda risata. «Ma certamente che conosciamo la posizione della scuola, ma in questi frangenti non è francamente possibile pensare di agire diversamente da come ci siamo accordati. Potrebbe essere un errore da pagarsi caro, mio principe», lo rimproverò l'uomo di Eton. «Il sangue chiama sangue». «Mio principe?» si domandò il dottore, la bocca improvvisamente secca. «E di quale sangue stavano parlando?» «Mai quanto l'errore di riconoscere il bambino, o peggio ancora di dare una rispettabilità alla sua squallida madre. Ha un nome?» La domanda aleggiò nell'aria appiccicandosi infine al giovane dottore. «Il bambino no, signore», rispose questi. «Non ha ancora un nome». «E la madre?» ringhiò il principe. «May», rispose il dottore, brancolando nel buio alla ricerca di una parete a cui appoggiarsi. «Si chiama May, lor signori». «Molto bene, dottore», lo incalzò il principe. Si mosse nell'oscurità facendo risuonare i suoi stivali sulla pietra umida e la livrea del suo vestito luccicò come l'ala di un corvo. «Allora io e voi dobbiamo andare dal re, mio fratello, a dargli la notizia che la povera May non è sopravvissuta e che il bambino è nato morto». «Principe, ma questo è malvagio», lo rimproverò la voce di uno degli altri congiurati. «Volete forse un bastardo sul trono d'Inghilterra?» ringhiò il principe Guglielmo, fermandosi a pochi passi dal giovane dottore, che ora poteva vederlo chiaramente in viso. Nessuno ebbe il coraggio di rispondergli. «Verrete con me a dare la notizia?» insistette il principe. Non era una domanda a cui si potesse rispondere liberamente. Il dottore annuì lentamente. L'uomo che aveva davanti a sé era colui che, se non ci fossero stati altri eredi, sarebbe presto diventato re. «Che cosa volete che si faccia della madre e del bambino?» domandò dietro di lui Sir Robert, prima che lasciassero la stanza del sotterraneo. «Il mare è lo sposo dell'Inghilterra», rispose il principe. «Lasciate che si occupi anche di questo segreto». Avete ascoltato la lettura di alcune pagine del libro di Pier Domenico Baccalario, La vera storia di Capitan Uncino, PM Editore, 320 pagine, €15,50. Albano, Toto Cutugno, I ricchi e poveri sono tra i pochi artisti italiani ad avere avuto la possibilità di oltrepassare la cortina di ferro prima del dicembre 1991. Nelle loro parole, il racconto di come si viveva in Russia durante il comunismo. 5 mele. Non c'era nient'altro tranne il cartoncino con il prezzo, in dollari. Il filo dei ricordi di Angelo Soggiu, il biondo dei ricchi e poveri, inizia da questa immagine dei GUM, gli storici grandi magazzini di Mosca affacciati sulla Piazza Rossa durante l'epoca sovietica. Oggi elegantissimo feudo delle grandi firme della moda internazionale, nel 1986, l'anno in cui il gruppo genovese iniziò a dare concerti nell'Unione Sovietica, era quasi vuoto, come tanti altri negozi. La povertà di cui arrivava notizia in Occidente era reale, E del resto fu lo stesso leader Mikhail Gorbaciov, al potere dal 1985, a dichiarare l'economia sovietica in stallo, dopo la stagnazione degli anni di Leonid Brezhnev, con la necessità di un programma di riforme. E fuori dai magazzini, conferma Soggiu, c'erano lo stesso file interminabili, anche d'inverno, anche con la neve. Eppure erano le stesse code lunghissime che ogni sera si formavano fuori dallo stadio prima dei concerti degli artisti italiani, che con l'avvento di Glasnost e Perestroika, i due pilastri delle riforme volute dal presidente Gorbaciov, erano stati invitati dall'agenzia statale addetta ai concerti a esibirsi nei paesi dell'ex-URSS. Grazie a Sanremo, che fu l'unico programma straniero trasmesso in diretta anche oltre Cortina e quindi uno dei pochi spiragli verso l'Occidente del blocco sovietico. Spiragli da pagare a caro prezzo, peraltro, dato che i biglietti per i concerti degli artisti italiani, che puntualmente facevano il tutto esaurito, costavano quanto mezzo stipendio dell'epoca e una lunghissima trafila in bilico tra burocrazia e mercato nero per ottenerli. Pur di avvicinarmi, un ragazzo siberiano di 18 anni si è fatto 4 giorni di treno e una volta arrivato a Mosca ha sfidato i soldati per salire sul palco. Ho fatto portare dello spumante e ho brindato con lui tra una canzone e l'altra, ma una volta sceso lo hanno portato dritto in galera, ricorda Cutugno. Con l'italiano, ancora oggi la canzone simbolo dell'Italia nell'immaginario collettivo dei russi, tanti sovietici hanno iniziato a masticare una lingua straniera. Ma i contatti tra i sovietici e gli artisti italiani, a parte i concerti e le file interminabili fuori dagli hotel per consegnare agli artisti regali come fiori, cartoline, disegni, pupazzi e matriosche, erano ridotti all'osso. All'Occidente, ancora negli anni Ottanta, non ci si poteva avvicinare troppo. In compenso, nei camerini comparivano spesso e volentieri personaggi famosi, la crème della società moscovita. Artisti, ma anche glorie dello sport, elenca il cantante dei Ricchi e Poveri, cosmonauti e quadri del partito. La casta non mancava neppure allora e non aveva comportamenti così diversi da quelli di oggi. Agli ospiti stranieri veniva ovviamente riservato un trattamento di riguardo, pur con tutti i limiti del caso. A tavola per noi c'era sempre caviale in quantità, ma niente mele o arance, quelle non si trovavano mai. Sorride Albano, che insieme all'ex moglie Romina Power ha duettato per anni sui palchi dell'Unione Sovietica. Il trattamento di riguardo per i ricchi e poveri era simboleggiato da una Ziguli nera, l'utilitaria Made in URSS prodotta dagli stabilimenti Fiat di Togliattigrad. Giravamo sempre con una di queste automobili e soprattutto eravamo sempre accompagnati dalla polizia e dai servizi segreti. Per proteggerci, dicevano. Così, anche in hotel, avevamo un piano solo per noi, guardato a vista. Niente microspie, però. Avevamo controllato le nostre stanze e non avevamo trovato nulla. Già, l'onnipresente KGB. L'intelligence sovietica che dal palazzo moscovita della Lubianca tra il 54 e il 91 ha terrorizzato i russi. Il sospetto che i suoi uomini tenessero tutto sotto controllo, perfino ogni piccola mossa dei cantanti italiani, Toto Cutugno invece l'ha chiaramente avuto. Una volta, all'aeroporto di Mosca, mentre ero in partenza per tornare in Italia, i doganieri mi chiesero allarmati dove fossero le 3 videocassette con i film di Totò che avevo portato con me. Il fatto è che le avevo semplicemente riposte in una valigia diversa da quella dove le avevo messe all'andata. Così ho scoperto che non appena atterrato in URSS, non solo i miei bagagli erano stati aperti, ma che il loro contenuto era stato accuratamente registrato. Certe cose nella Russia nata dalle ceneri dell'URSS non sono cambiate. Le persone normali fanno ancora la fila per andare ai concerti. Ma i VIP, che adesso sono gli oligarchi, faccendieri arricchitisi con metodi poco puliti ai tempi delle privatizzazioni selvagge che hanno seguito il crollo sovietico del 1991, non fanno più visita agli artisti nei camerini. Ora li prenotano per concerti privati, spesso proprio in Italia. Si stava meglio prima? Si sta meglio adesso? Lo chiedo spesso ai miei amici russi e ognuno mi dà una risposta diversa, conclude Cutugno. A prima vista, 20 anni fa, arrivavo dall'aeroporto in centro in meno di mezz'ora. Oggi, a causa del traffico e dei macchinoni dei nuovi ricchi, ci vuole il triplo del tempo. È vero, di ciò che c'era prima è rimasto ben poco, ribadisce Soggiu. E Mosca è diventata ormai come New York, ma la provincia non è poi cambiata così tanto. Thank you. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'articolo di Greta Schlaunig, Toto Cutugno, Albano, i ricchi e poveri. A 20 anni dalla fine, vi raccontiamo noi com'era l'URSS, dal magazine 7 del 15 dicembre.